medesimo che mi porta alla follia. Sfondi surreali, pensieri non banali. Mi vivo sta serata, lontano dai miei mali. Tra le braccia di una fata, aspetto la giornata. Il primo raggio di luce che saluta la serata, piena più che mai, e finché non proverai, la realtà che ti circonda sarà stretta tanto assai. Passano le ore, il viaggio è il capolinea, ma la testa mi sussurra: questa volta è diversa, sono più contento, ti lascerò affatto. Ma cosa sto pensando? Cerco in me stesso, come ero qualche ora fa, ma il ricordo non ho più impresso. Cerco la calma e la certezza di un evento, lo sblocco di sto gioco che non è più un eccesso, ma diventa in quel momento una parte del tempo che ricomincia a girare, ma io non giro in quel tempo, mi sono disperso. Cala la pazzia come un velo sulla faccia, la mia ombra si tramuta e ricopre la mia stanza. Mi avvolge nei pensieri che mi martellano la testa. Basta, non ci riesco a tenerti buono e calmo qui dentro. E ora che te ne vai, è arrivato il tuo momento. Mi do il consenso di liberarmi e uscire da tutto questo. Ma cosa stai dicendo? Io sono parte di te, che condividiamo pensieri, problemi, quelli che oggi sono gli stessi di ieri. Non voglio più ascoltarti, tu non esisti. Sono stanco di pensare, mi voglio addormentare. La notte si fa lunga e non cambia la situazione. Do causa ai miei dolori e lui le soluzioni. Mi agito nello spazio che mi divide dalla pazzia. L'unico mio atto lucido sta nella ricerca di una via che mi porti via da qui, nel teatro degli orrori, dove sono l'accusato che si accusa dei propri errori. Il contatto con la realtà è il mio ultimo battito d'ali, verso un sole caldo che mi liberi dei miei mali. Ma in realtà sono ancora nel labirinto che mi son creato. Fuggo dal minotauro che mi angossa con il suo fiato. Intrappolato nel mio letto, da psichiatra, da paziente, la posta in gioco è troppo alta e il mio futuro è evidente. Penso ad ogni singolo momento di evasione, ma in fondo ti ho cercato e accetto questa situazione. Penso ai miei amici che non potranno più parlare con il solito Ale schizzato, ma solo quello schizzato che subentra in questo stato di pace apparente. L'agonia non si manifesta, ma con sé il movente. Sbaglio, se questa è la tua richiesta, la posso accettare. Addio Alex, ora proteggerti da solo con la tua pazzia. Nata non per colpa mia, ma da sempre c'è nata. Come tua condanna, ora che svelata, sta solo te consumarla. Ritorna in silenzio e con sei dubbi, ritorna quella sana sensazione di non voler essere svegli, calmo e assopito, sdraiato nel letto, ora chiedo solo a me stesso quello spazio che dedico al sonno e ai sogni per troppo tempo rapiti, mi addormento con dentro quei dolori assopiti.